Per la prima volta parla Reza Khatami. In un'intervista rilasciata al periodico egiziano Al Ahram e al giornalista, al collega Mustafa El Labad, Mohammed Reza Khatami, che è il leader del maggior partito politico iraniano, l'Islamic Iran Participation Front, parla di tutti i problemi che i riformisti devono affrontare in Iran. Khatami, che attualmente svolge il suo lavoro di primo deputato portavoce del sesto Majlis, che è il Parlamento iraniano, il Majlis, è stato interdetto politicamente nelle sue funzioni proprio per aver contestato le recenti elezioni parlamentari. Reza Khatami, 45 anni, è il fratello del presidente iraniano Muhammad Khatami, sposato alla nipote dell'Ayatollah Khomeini. Reza Khatami è stato uno dei leader degli studenti che hanno occupato l'ambasciata americana a Teheran nel 1979. L'intervista è un j'accuse durissimo contro la politica della teocrazia del governo di Teheran, che limita in maniera significativa e oppressiva le libertà individuali dei cittadini iraniani. Si domanda Khatami, addirittura pensano che contro l'Islam siano la musica, il teatro, il cinema. Questo è inconcepibile, che non concedono al nostro popolo almeno una parte di queste libertà. Se solo i religiosi autorizzassero delle minime libertà sociali e migliorassero le relazioni con gli altri paesi, noi potremmo accettare un tavolo di confronto. L'occupazione dell'ambasciata nel 1979 di molti cittadini americani, come molti ricorderanno, fu uno degli episodi più importanti della politica della cosiddetta guerra fredda tra gli Stati Uniti, tra la Casa Bianca e il regime di Teheran, tra Carter e Khomeini. Nell'intervista viene ricostruita anche questa vicenda. In ultimo, subito dopo l'uscita di questa intervista su Al Ahram, il periodico egiziano, Reza Khatami è stato denunciato dalla magistratura del suo paese per le affermazioni che sono proprio contenute nell'intervista. Roberto Di Nunzio, reporter associati per Amisnet Radio.